l'orre e l'uputialo. Cavallo tirando munnu munnu, ma la cosa chi conta è chi torna. Dalle mie compagni giù alla Sicilia, sì, già li miei frati a casa mia, alla ginatria, si antono. E tu che sai quando vai e che ritornerai, l'amico vero non ti lascia mai. Io ti tengo qui vicino a me, sì vicino a me. Un mese passo e sta pensando allo me ritorno. Io li non c'è foga, una giantichia mi va curco. Se poi non prendo sonno aspetto l'alba del nuovo giorno. Di tagliare fuori pensando al caldo d'agosto, che infiammiamo le yard della mia isola. Faremo stare buoni ma la situazione è critica. Culo cavolo ti fa, sai che l'aria diventa mistica. E un giorno sopra ad aiutare in misa risica. E se mucca, tanti anni che firriamo in ciala danza. Poche parole pilime, frate il riso istanza. E senti un putiaro picco canta. Non ci piace l'uma più su cacumanna. E senti ca, chi gioca cantamo noi. Sai che l'uma è che mi pratica. Intanto tu che spargi l'odio ca si radica. Senti l'uma più puttano più canta. Yo, yo. E tu che sai quando vai e che ritornerai. L'amico vero non ti lascia mai. Io vi tengo qui vicino a me. Sì vicino a me. Scino alla trinacria, incocio lì picciotti, una serata alcolica, con tutti gli compari da Mazzara fino a Modica. C'è ancora l'usa un check, ma la gente che già s'agita, la serata è magica, non c'è stato mai, forse lo immagina la femmina già s'agita, sai, per ogni lirica. Ora tutti chi s'arrica un passero paghirica, una manisata per lo re della putiaca. Chi sei mutante e nintui siamo sotto i raggi. Camminiamo in mezzo all'estate come l'arma di sarvaggi. Abballamo con l'ureghe in mezzo scruscio di lisciaggi. In mezzo all'aggi siamo tutti cannavazzi e tutta laschi. Di chi pensi sono pazzi e con queste vibrazioni facciamo care dei palazzi. E tu che sai quando vai e che ritornerai. L'amico vero non ti lascia mai. Io vi tengo qui vicino a me, sì vicino a me. Firriano, firriano, pilu munu. Sai che la cosa più bella è quando torno. E io che trovo tutto picco mula savo. E chiancio come un picciriggio quando mi ne vaio. Firriano, firriano, pilu munu. Sai che la cosa più bella è quando torno. E io che trovo tutto picco mula savo. E chiancio come un picciriggio quando mi ne vaio. E tu che sai quando vai e che ritornerai. L'amico vero non ti lascia mai. Io vi tengo qui vicino a me, sì vicino a me. E tu che sai quando vai e che ritornerai. L'amico vero non ti lascia mai. Io vi tengo qui vicino a me, sì vicino a me.